Letture di Radio 24. A Cuba, la possibilità di ascoltare una radio diversa da quella imposta dal regime rappresenta un balsamo per le orecchie, anche quando l'ascolto è disturbato dalle numerose interferenze. Così scrive nel suo blog la dissidente cubana Ioani Sanchez. La radio che mi hanno regalato per il mio ultimo compleanno sonnecchia piena di polvere sopra una libreria. Non vale la pena accenderla perché sono davvero poche le cose da ascoltare. In questa zona piena di alti ministeri e di antenne utilizzate per ostacolare le trasmissioni in onde corte che entrano nel paese, non si sentono bene neppure le emittenti nazionali. Io mi illudo di poter ascoltare la Deutsche Welle per tenere in allenamento la lingua tedesca, ma l'altoparlante emette un ronzio al posto dell'atteso Guten Tag. In quest'isola viviamo nel bel mezzo di una vera e propria guerra di frequenze radio. Da un lato abbiamo l'emittente chiamata Radio Martì che trasmette dagli Stati Uniti, proibita ma parecchio popolare tra i miei compatrioti, e dall'altro i disturbi utilizzati per farla tacere. Dentro le case la gente cerca il luogo, sia in un angolo vicino a una finestra o attaccato al tetto, dove la radio riesce a eludere il ronzio delle insopportabili interferenze. Non importa quel che stanno trasmettendo dall'altra parte, non importa neppure se si tratta di un noioso programma musicale, di un notiziario in inglese o delle previsioni del tempo di un'altra zona del mondo. È un balsamo per le orecchie il solo fatto che suoni differente, che è ben lontana da quel mix di parole d'ordine e prosa senza libertà che trasmette ogni giorno la radio cubana. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Ioani Sanchez «Com'è triste Radio Cuba». Dalla stampa del 25 settembre. Letture di Radio 24. Molly Norris, licenziata dal Seattle Weekly per aver realizzato una blanda vignetta sull'Islam, è entrata a far parte dell'esercito degli invisibili, quelli che sono perseguitati per aver osato esprimere un'opinione, ma che nessuno si degna di difendere. C'è una vignetta che raffigura due donne, una coperta secondo l'uso musulmano, l'altra adornata da un copricapo grottesco. La didascalia dice «per mettere il velo che copre il viso», e proibire i cappelli d'alta moda. C'è qualcosa di tremendamente offensivo nei confronti della religione islamica? Di oltraggioso, di violento, di ripugnante, di volgare, in una vignetta così? Magari è solo una battuta non riuscita, ma anche per questa vignetta una ragazza che si chiama Molly Norris viene licenziata dal giornale per cui lavorava, il Seattle Weekly, viene condannata da una fatwa e costretta a vivere blindata sotto una protezione asfissiante. Molly Norris è entrata così a far parte di una invisibile internazionale, anzi dell'internazionale più visibile mai conosciuta, quella dei giornalisti, dei vignettisti, degli intellettuali, dei registi che pagano con una vita impossibile un atto che considereremmo normale, ovvio, naturale, nei sistemi democratici retti dal principio della libertà di espressione. Di questa internazionale non si parla mai. E chi subisce le minacce dei fanatici non soltanto trascorre la vita a nascondersi, a non farsi vedere, a cambiare domicilio, a perdere il lavoro, a espatriare, a costruire stanze inaccessibili, come il vignettista danese inseguito fino all'ingresso della stanza della salvezza da un energumeno armato d'ascia che lo voleva massacrare nel nome della sua religione. Chi viene condannato a morte è anche terribilmente solo, privo di quella solidarietà elementare che dovrebbe essere elargita a chi, in fondo, è consapevole soltanto di aver svolto in libertà il suo lavoro. Il cortometraggio Submission di Theo Van Gogh, il regista assassinato ritualmente in pieno centro di Amsterdam, è stato rifiutato da tutti i festival del cinema, da Locarno a Cannes. Non per ragioni artistiche, per il terrore di essere colpiti dalla rappresaglia dei terroristi. Ayan Irshiali è stata costretta a cambiare casa in Olanda perché i suoi vicini non volevano saperne di vivere accanto a un bersaglio prelibato dei fondamentalisti islamici. Nessuno nella scuola francese del docente costretto a emigrare e a nascondersi per aver scritto sul Figaro un articolo critico nei confronti dell'islamismo si è chiesto che fine abbia fatto quel professore. Nemmeno un manifesto solidale, una riunione, un manifesto, niente di niente. Per non entrare nell'internazionale dei condannati a morte, gli sceneggiatori di South Park hanno prudentemente ritenuto di cancellare una battuta blandamente ironica nei confronti di Maometto. E certo, Se avessimo insistito, mica avrebbero sentito la protesta dei paladini a zigzag della libertà d'espressione. Quelli che protestano al sicuro, senza dover pagare il prezzo di quei disgraziati che hanno sfiorato l'intoccabile. L'Internazionale dei Disgraziati. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista «Nessuna solidarietà per gli invisibili» dal Corriere della Sera del 27 settembre. J.K. Rowling è stata appena consacrata dalla rivista Forbes tra le 14 donne più ricche del mondo. Ma da 10 anni la saga di Harry Potter gode anche di un altro primato, quella dei libri più censurati d'America. Non è uno scherzo. Le avventure del maghetto guidano la classifica 2000-2009 dei libri più odiati, temuti, minacciati, banditi. Quelli, insomma, da mettere a rogo. Un'ossessione che 60 anni dopo Fahrenheit 451, l'incubo di Ray Bradbury che François Truffaut portò al cinema, rivive nell'America in cui la stella di Barack Obama sembra già offuscata dai nuvoloni dei fondamentalisti del Tea Party. Per carità, la censura è in agguato in tutto il mondo e la classifica dei libri da bandire in fondo è anche l'altra faccia di questo paese straordinario dove le biblioteche pubbliche contano davvero. Al punto che non c'è giorno in cui non si svegli l'intollerante di turno per chiedere che quel libro venga immediatamente ritirato. La settimana dei libri banditi è stata lanciata dall'American Library Association proprio per questo: difendere i libri dai censori perennemente in agguato. C'è da dire che Harry Potter è in ottima compagnia. Nella top 20 compaiono titoli al di sopra di ogni sospetto. Prendete Il giovane Holden. Il capolavoro di Salinger negli Stati Uniti fa addirittura parte dei programmi scolastici. Eppure c'è chi ha chiesto di metterlo al bando per quel linguaggio esplicito che ha fatto la storia della letteratura. E che dire del Buio oltre la siepe? Proprio quest'anno ha festeggiato mezzo secolo, ma in tante biblioteche continua ad essere bandito. L'argomento razzismo è troppo scabroso. Assurdo? La voglia di censura ha colpito perfino le avventure di Huckleberry Finn, di quel Mark Twain di cui pure oggi riemergono proprio le ombre razziste. Il suo piccolo eroe sarebbe comunque troppo intraprendente da elevare a modello per i ragazzini d'America. E Gli uomini e topi di John Steinbeck? Troppo dura quella denuncia dello sfruttamento. Meglio non esporlo in biblioteca. Lo scrittore ha pure l'onore di comparire al terzo posto della specialissima classifica dei classici banditi, con un altro pericolosissimo libro, Furore. Qui il primo della categoria è invece il lussurioso Francis Scott Fitzgerald, del Grande Gatsby. E poi via di censura in censura. Dal 1984 di George Orwell, I bigotti non conoscono l'autoironia, fino all'immancabile Lolita di Vladimir Nabokov. C'è poco da scherzare. Anche il New York Times è sceso in campo evidenziando i rischi per la libertà di espressione. E la settimana dei libri banditi ha trovato un testimonial d'eccezione nel popolarissimo Muppet Show, che già l'anno scorso realizzò uno sketch in cui il vecchio Kermit invitava gli stessi bambini a non lasciarsi manipolare dai censori. Bravissimi, si sa, ad argomentare con parole di miele e poi colpire col bastone. Dopo aver letto il primo libro della serie, dopo aver letto le critiche, dopo aver discusso la questione con educatori interni ed esterni, sono giunto a queste conclusioni. Il libro non dovrà essere esposto nelle librerie delle scuole. Il libro non potrà essere usato per le letture in classe. Ogni altro ulteriore volume della serie non potrà essere acquistato. Così sentenziava Gary L. Finstra, direttore delle scuole pubbliche di Zeeland, Michigan, nel lontano 1999, innescando quell'avventura che avrebbe stregato il maghetto per più di 10 anni, Harry Potter e i Cavalieri della Censura. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Angelo Acquaro, Libri, da furore a Harry Potter, la classifica dei più censurati, da Repubblica del 28 settembre.